la pacchia è stra finita. La nuova classe apolide finanziaria. Sul Jobs Act, che è la riforma più di sinistra mai fatta nel settore del lavoro. L'acqua è quello per cui noi siamo costituiti, di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%. L'indigesto. L'approfondimento di Radio Città Pusceto. Le 17 in punto, un buon pomeriggio da Anna e benvenute e benvenuti a questa puntata dell'Indigesto, una puntata speciale perché staremo insieme dalle 17 alle 18 come sempre, ma lo faremo con un sacco di ospiti che sono già qui davanti a me, quindi inizio a presentarveli e a salutarli. Anche in studio con noi ci sono Micia, Goffredo, Valentina ed Ariessa di Smascheramenti e del MIT, che sono qui in rappresentanza del B-Side Pride per raccontare di cosa si tratta. Infatti il 22 giugno ci sarà il Pride a Bologna e ci sarà anche il B-Side Pride, e allora parleremo appunto con loro degli eventi intanto che ci saranno in avvicinamento, perché ho citato il 22 giugno ma ce ne saranno molti altri. Parleremo delle ragioni con cui nasce il B-Side Pride e di tutte le realtà bolognesi, ma non solo, che coinvolge. Insomma, sarà una puntata densa di contenuti e densa anche di musica. Io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere qui con noi. E a questo punto vi ricordo anche il numero di telefono per interagire con la diretta, è il 333-180-9494, potete farlo via SMS, WhatsApp e Telegram. E se dall'altro lato del vetro, dalla parte degli ospiti, volete provare a ridire il numero, intanto così intanto inizio a inserirvi in questa diretta, lo avete lì scritto vicino a te, Dariessa, così potete coinvolgere anche voi ascoltatrici e ascoltatori che sono qui con noi. Allora, il numero è 333-1809-494. Perfetto, e così avete iniziato a sentire la prima voce, ne sentiremo molte altre. E a questo proposito iniziamo a sentire anche quella di Micia, che per noi ha scelto anche la playlist di questa puntata e che quindi introdurrà anche la prima canzone che ci ascoltiamo adesso prima di entrare nel vivo di questa puntata. Ciao, la prima canzone si chiama The Queer Song, tanto per introdurre gli argomenti. Radio Città Fujiko 103.1 FM. E questa era The Queer Song, che tra l'altro ci introduce anche, diciamo, ha dato una spiegazione anche della sigla, di tutte le sigle che rientrano poi sotto il cappello LGBTQ+, io qui lo sto sintetizzando. In realtà a questo punto direi che, visto che abbiamo detto che parleremo di B-Side Pride ma non abbiamo ancora veramente spiegato di che cosa si tratta, la prima domanda che vi devo fare è proprio: che cos'è il B-Side Pride e anche come ci si arriva? Beh sì, il B-Side Pride è un percorso di movimento che sta chiamando uno spezzone indipendente dentro il Pride di Bologna di quest'anno, il 22 giugno. Abbiamo cominciato a vederci da marzo attraverso una serie di assemblee, e dentro questo percorso stanno soggettività singole ma anche gruppi con molto diversi fra loro. Ci stanno dei gruppi auto-organizzati che fanno politica in questa città, politica LGBTQ da molti anni, stanno delle grandi associazioni come il MIT, come l'associazione Plus, che si occupa dei diritti delle persone sieropositive, con un taglio decisamente legato all'omosessualità. Pur nella nostra diversità abbiamo condiviso l'esigenza, che un po' ha dato vita a tutto il percorso, di ritornare a fare politica frocia partendo dai bisogni materiali delle soggettività e dai diversi bisogni di soggettività LGBTQ incarnate, e che spesso abbiamo visto che, diciamo, negli ultimi Pride, in realtà non solo negli ultimi Pride ma da un bel po' nel movimento gay, spesso le agende dei Pride, diciamo, si sono spesso limitate a rivendicazioni legate ai diritti delle coppie, cose ovviamente importanti, ma noi ci rendiamo conto che ci sono tantissimi dei nostri bisogni, tantissime delle cose di cui ci interessa parlare, che in queste piattaforme raramente trovano spazio. E quindi perché ci si ricominci a parlare a partire da a questi bisogni, intercettare i bisogni di queste soggettività incarnate, c'è bisogno anche di un processo politico e di un'organizzazione autonoma, di un'organizzazione molto orizzontale, molto partecipata, e questo è stato un po' il tentativo è proprio quello di aprire questo spazio, uno spazio in cui si possa ripartire dai bisogni che sono ovviamente legati anche per esempio a questioni di reddito, a questioni di welfare, a questioni legate alla libertà di movimento, alla libertà di transitare, e quindi abbiamo cercato un po' di mettere in comune ognuna le proprie riflessioni, il proprio lavoro per arrivare insieme a questo Pride. Però è una mossa assolutamente, diciamo, espansiva. Vogliamo essere in questo Pride cittadino, vogliamo essere in questo spazio, parlare a tutte ed essere presenti con le nostre modalità e le nostre forme di occupare lo spazio pubblico. Nel documento politico con cui viene lanciato il Bisset Pride, e tra l'altro iniziamo a dare qualche riferimento, si può trovare anche sulla pagina Facebook appunto del Bisset Pride tutte le informazioni che stiamo dando, quindi appunto si può trovare anche il documento politico con cui è stata lanciata questa iniziativa. E all'inizio di questo documento politico una frase molto divertente è quella: abbiamo contattato un esperto di team building per aiutarci a costruire un gruppo omogeneo, ma miseramente fallito. Restiamo diverse, ma abbiamo diverse cose in comune, che riprende un po' anche quello che stavi dicendo tu, Goffredo, nel senso che riprende appunto il fatto che ci siano moltissime soggettività che rientrano in questo contenitore, cappello, che è il Bisset Pride, e anche molte realtà bolognesi e non solo. Magari vi chiederei anche di iniziare a farci un elenco di quelle che sono le realtà. Noi qui abbiamo rappresentato appunto il Laboratorio Smascheramenti e il MIT, ma ce ne sono anche molte altre, alcune le stavi anche già iniziando a citare, per esempio Plus. Come dicevamo, oltre al movimento Identità Trans e Plus, c'è la Laboratorio Smascheramenti, Elastico Fart, Collettiva Elettronica, La Maleducazione, Laboratorio L'Isola, Il Barattolo, Ombre Rosse e Rino, per le realtà bolognesi. Poi aderisco anche Noi Altre, Pride of Rimini, Non Collettivo Queer Genova, Link Forlì, Urania, Frocia, Z-Quad Firenze. E poi, se non mi sbaglio, Micia, forse prima dicevi che c'è stata un'altra adesione di poco tempo fa che non è ancora rientrata nel documento su Facebook, diciamo. Sì, facciamo le frangette estreme dovrebbero essere con noi anche. Il grande ritorno. E quindi insomma sì, una lista che si sta anche allungando, diciamo, in questi giorni, e appunto tante le soggettività e tante anche le istanze, tutte soggettività che però, dicevate, in qualche modo a volte vengono un po' invisibilizzate, nel senso si perde nell'insieme, diciamo, di tutto, in questa sigla che poi riunisce tutto quanto, no? Anche quella che veniva spiegata prima nella canzone, poi si perdono alcune lettere in qualche modo. E non solo si perdono delle lettere, ma un altro tema che emerge abbastanza chiaramente dal documento con cui viene lanciato il Bisset Pride è che si perdono anche poi delle soggettività che vengono razzializzate, soprattutto in questo momento politico. Per esempio, noi come MIT abbiamo aderito a questo percorso perché pensiamo ai 50 anni di Stonewall, dalla rivolta di Stonewall, messa in atto da due trans, sudamericana e afroamericana, ci sembrava giusto e importante ridare voce alle soggettività trans, ai migranti, alle prostitute e a chi non ha voce. Pensiamo anche al gruppo intersex. Quindi pensiamo che nel Pride noi non stiamo lì a chiedere diritti, ma rivendichiamo il riconoscimento dei nostri diritti. Come diceva Marcella Di Folco, noi nasciamo con dei diritti e che lo Stato non vuole riconoscerci. Invece noi dobbiamo lottare per questo riconoscimento che ci è dato dalla nostra nascita. E poi quello che ci preme molto, lo dice chiaramente il nostro documento politico, è parlare delle nostre esigenze quotidiane, che spesso nei Pride più mainstream parliamo tanto dei diritti, ma delle esigenze vere non se ne parla mai. Le esigenze della salute trans, che non è solo prendere gli ormoni, è un qualcosa di molto più complesso, che la medicina solo oggi sta iniziando a capire. Infatti l'Istituto Superiore di Sanità sta iniziando un percorso con l'Istituto di Medicina di Genere. Pensiamo ai bisogni delle persone sex worker, che non se ne parla sempre meno all'interno della comunità, e oggi c'è una criminalizzazione sempre più forte, soprattutto dal nostro caro ministro degli interni, e le politiche repressive si fanno sentire in strada. Noi come MIT usciamo ogni settimana a dare sostegno e fare riduzione del danno con le nostre compagne sex worker, e quello che vediamo, forse su Bologna non tanto, ma nelle altre città, le politiche criminalizzanti delle lavoratrici del sesso ha portato a disperderle su tutto il territorio, a essere più disunite, a non avere sicurezza sul proprio posto di lavoro e a una repressione di tipo poliziesco. E anche le proposte che viene fatta dalla Lega di ritornare alle case chiuse è sempre un'ottica sicuritaria, ma non parliamo invece del benessere delle lavoratrici. Perfetto, allora io direi ora ci prendiamo un'altra pausa musicale tra pochissimo, quindi intanto chiedo a Micia di iniziare a pensare a quale sarà la prossima canzone che ci ascolteremo, e poi tra pochissimo torniamo insieme a questo punto, visto che si iniziava a citare l'anniversario, il 50° anniversario dei moti di Stonewall, per partire poi da lì, quindi da una ricostruzione appunto di che cosa sono i moti di Stonewall e che cosa significano per il Pride. Vedo risate dall'altra parte, non ricostruiamo proprio tutta la storia basta qualche cenno, diciamo, però da lì, per poi arrivare anche a date più recenti, perché per esempio un altro movimento che è citato molto più recente è quello di Non Una di Meno, in particolare Verona città transfemminista. Però prima ci ascoltiamo un altro brano, che mi c'è? Mississippi Goddam, direi, del 64 di Nina Simone. E questo pezzo era la, visto che si è parlato di razzismo, di violenza razzista, era la risposta che lei diede l'anno dopo che ci furono i tragici fatti di Birmingham in Alabama, dove durante una bomba alla chiesa di Birmingham appunto vennero uccise quattro bambine. E addirittura lei era convinta che tutta la sua carriera discografica fosse stata boicottata proprio per la scelta di inserire questo pezzo di critica politica molto forte nel suo album. Quindi buon ascolto. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Le 17:17 minuti e rientriamo in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko. Perché si fosse connesso ora sulle nostre frequenze, stiamo parlando di B-Side Pride, e poco fa si erano citati i moti di Stonewall, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, che sono appunto uno dei temi, in qualche modo anche un momento storico rimesso in discussione. Non so se lo sto dicendo nel modo più corretto, però diciamo sicuramente sarebbe utile citarne la storia e capirla un attimo, per poi arrivare anche a capire come significa o no, risignifica anche il Pride, il B-Side Pride a 50 anni di distanza. Quindi intanto vi chiederei di appunto spiegarci che cosa sono i moti di Stonewall e perché sono così importanti 50 anni dopo. Allora, Stonewall era un bar per le persone gay, drag queen, travestite, butch, insomma tutto il variegato mondo rainbow, e soltanto che all'epoca nello stato di New York erano illegali ed erano gestiti questi qui illegali dalla mafia italoamericana. C'era una legge nello stato di New York in cui proibiva il travestimento, e quindi ogni persona era obbligata a indossare almeno tre capi del proprio sesso di assegnazione alla nascita, e quindi c'erano spesso delle retate in questi locali. Solo che tra il 28 giugno e il 29 del 1969 le drag queen e le trans hanno detto andate tutte a fanculo e si sono rivoltate. La leggenda dice che Silvia Rivera, che era una trans di origine sudamericana avesse lanciato un tacco a spillo contro la polizia. In realtà era una bottiglia di vodka e probabilmente non era manco stata Silvia Rivera ma Marsha P. Johnson, che invece era un'altra attivista trans afroamericana di New York. E da lì tutto è nato. È stata una settimana messa a fuoco il village a Manhattan a New York e da lì è nata questa favolosa storia. Soltanto che poi dopo, già negli anni 70, Silvia e Marsha furono messe da parte dal movimento gay bianco, perché già all'epoca si rivendicava una normalizzazione e tutte le soggettività minoritarie o comunque marginali sono state proprio messe sotto il tappeto. E lì allora poi Marsha e Silvia inventarono lo STAR, che era un'associazione che si occupava delle travestite e delle trans homeless. E però poi furono mandate nel dimenticatoio, Silvia tra tossicodipendenza e alcolismo e fu poi a sua volta homeless. Poi Marsha negli anni 90 si dice che fu presa dalla polizia, morta suicida nel fiume Houston, invece secondo molti attivisti fu ammazzata dalla mafia. E quindi questa sì era un po' la storia dei moti di Stonewall, che vengono richiamati anche nel documento appunto con cui si lancia poi il B-Side Pride, e vengono richiamati insieme invece appunto, come dicevo prima, a una manifestazione che si è tenuta quest'anno molto meno tempo fa, che era Verona città transfemminista, una mobilitazione organizzata e chiamata da non una di meno, che anche questo è importante dirlo perché in molti casi si è persa questa informazione. E quindi vi chiederei anche perché è importante richiamare anche questa rimobilitazione, che sicuramente era caratterizzata anche in modo diverso, diciamo, dai moti di Stonewall. Sì, la manifestazione, diciamo che mentre discutevamo di come avremmo potuto partecipare al Pride di quest'anno, la manifestazione Verona città transfemminista ci ha dato un bel esempio, che è stato definito da tante anche Verona è il nostro Pride. Verona è stato il nostro Pride perché la modalità che ha portato non una di meno di attraversare lo spazio pubblico con autonomia rispetto a i partiti, la politica istituzionale, contro un regime transnazionale di neofondamentalismo che sta dilagando e che si ritrovava a questo World Congress of Families a Verona, e quindi la capacità che ha avuto non una di meno di auto-organizzazione per rompere anche questo ordine che veniva portato di normalizzazione e di conservatorismo in quella città in quel momento, e ribaltare completamente la giornata, perché evidentemente più di 100.000 persone hanno completamente anche oscurato quello che poteva essere i contenuti portati dal congresso della famiglia. Non una di meno, credo che sia importante per il B-Side Pride anche per la lettura della violenza di genere, della violenza maschile sulle donne, della violenza dei generi che sta portando da 3 anni a questa parte a livello globale, diciamo, perché comunque non ha di meno fa parte di un movimento globale che organizza lo sciopero femminista e riconosce la violenza come strutturale, diciamo, e rifiuta la lettura della violenza come caso singolo, isolato, come patologia, come raptus nel caso della violenza sulle donne, sulle trans, sui trans, e anche l'omolesbo-transfobia rientra in questa lettura. Non sono episodi dei singoli, problemi dei singoli, ma è una violenza strutturale volta a mantenere e produrre un ordine sociale e le gerarchie sociali che questo ordine comportano. Ovviamente per noi una di queste regole è l'eterosessualità obbligatoria, che assolutamente rifiutiamo, e in questo caso, forse un po' a sorpresa, mi sento di dare solidarietà alla pagina Facebook Teoria Gender per la Vita, che sta subendo diversi attacchi in questi giorni per aver criticato un cartello che vediamo spesso nei Pride, cioè supporto la parata ma mi piace la patata, che in qualche modo indica, no? Nel senso, vengo al Pride ma non vorrei certo essere scambiato per una frocia, per carità di Dio, e segnala, no, il posizionamento eterosessuale come se non esserlo fosse un problema, ma anche non coglie in qualche modo appunto quello che era Stonewall, cioè la rottura di tutti gli ordini, no? di tutti i disciplinamenti che i nostri corpi, i nostri desideri, che forse è una parola che abbiamo detto poco, perché sono i bisogni ma sono anche i desideri quelli che vogliamo portare in piazza, e quindi questo ingabbiamento anche in queste categorie, diciamo che ci sta stretto, quindi tutti al Pride, ma per liberarci tutti, per liberare i nostri corpi, per liberare i desideri e per anche riconoscere questo binarismo dei generi in qualche modo come stretto per tante di noi, nel senso, ma anche per dire a tutti di interrogarsi su questo binarismo, perché poi alla fine quello che anche Nuna di meno ci dice, che in questo binarismo c'è un genere che è quello maschile egemonico e un genere che deve essere sottomesso, che è quello femminile. Quindi dividere la società in queste due categorie, ovviamente, e usare la violenza per mantenere questo ordine, pensiamo che bisogna distruggere questa modalità, ecco. Perfetto, abbiamo fatto un excursus anche molto interessante. Sì, tra l'altro avevo visto anch'io tutte le critiche che erano arrivate alla pagina Teoria Gender per la Vita in seguito alla condivisione di questo cartello, che era, se non mi sbaglio, sì, supporto la parata anche se mi piace la patata, che era ancora, per quello lo sottolineavo. Però, visto che siamo entrati in questo argomento, un po' già lo spiegavi prima in realtà, poi quando stavi concludendo, però ti richiederei se potete farci una spiegazione anche semplice e semplificata di questa cosa, perché appunto i due temi che venivano messi a problema di questo cartello, per esempio, erano proprio da una parte l'ostentazione dell'eterosessualità, ma dall'altra anche appunto poi quel tema che tu richiamavi anche nel senso della violenza strutturale, della violenza dei generi, dell'imposizione di un binarismo di genere, ma anche dell'imposizione desideri sui corpi di qualcun altro, no? Di desideri di identità, cioè, perché non era solo un tema, erano due quelli che venivano meno in questo cartello, che poi quello era un caso, però effettivamente è un cartello che ritorna spesso. E forse il concetto più complicato, perché l'ostentazione dell'eterosessualità non lo è poi così tanto, è proprio quello della di come questo cartello riproduca appunto il binarismo di genere, siccome siamo comunque in una fascia in cui normalmente parliamo di informazioni e di tematiche più semplici, forse almeno per quanto riguarda il linguaggio. Vi chiederei se potete spiegarci un pochino appunto a partire proprio dal binarismo di genere, da la differenza forse anche tra sesso biologico e genere, partiamo un pochino dalle basi sul perché è problematico questo cartello, poi non tanto per il singolo che lo ha portato al Pride di Modena ovviamente, ma appunto come forse anche come segnale di alcuni dei problemi che voi nel chiamare il B-Side Pride segnalate nel Pride. Allora, partiamo proprio dalle basi, sarò molto semplificherò molto questo pensiero, anche se non è proprio il pensiero politico che sento mio. Secondo la psicologia clinica si pensa che il sesso biologico e l'identità di genere non sempre combaciano. E cosa intendiamo per sesso biologico? Le persone nascono maschi, femmine, e poi tra il maschile e il femminile c'è tutta una varietà di sessi biologici che viene messa poi sotto il cappello di intersessualità, o politicamente chiamata intersex. Quindi la natura stessa dell'umanità non è binaria, cioè maschio o femmina, ma anche biologicamente il corpo umano si esprime con una diversità molto ampia. Poi c'è l'identità di genere, che anche qui non è solo uomo, donna, ma c'è tutta una serie di identità che possono combaciare o non combaciare con la propria, col proprio corpo, con la propria, col proprio genoma o con il proprio sesso biologico, con i propri genitali. Quindi abbiamo persone trans, persone intersex che rivendicano il fatto di essere non solo biologicamente ma una propria identità non binaria, e persone che magari invece nascono maschi o femmine e rivendicano l'identità non binaria, quindi non si riconoscono né nel maschile né nel femminile e rivendicano questa libertà di vivere un genere che non è costretto nel binario maschile-femminile. Perfetto, a questo punto io direi che ci ascoltiamo un altro brano e poi ci prendiamo una breve pausa pubblicitaria, ma restate sintonizzate, sintonizzati e sintonizzato, visto che abbiamo fatto questo discorso sulle identità di genere, il binarismo di genere, perché tra pochissimo, dopo la pubblicità, torneremo insieme in diretta. Prima che tu ti tolga le cuffie, Micia, mi devi dire che cosa ci ascoltiamo. Vabbè, direi a questo punto mettiamo Against Me, Transgender Dysphoria Blues, dedicata alle nostre amiche di Teoria Gender per la Vita. Music. State ascoltando Radio Città Fujiko. Music. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Music. Rientriamo in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko, siamo sempre di più e stiamo parlando del B-Side Pride. Allora, finora abbiamo raccontato un po' che cos'è il B-Side Pride e anche la storia, diciamo, che in qualche modo porta poi a questa chiamata. Però il B-Side Pride sarà uno spezzone dissidente, diciamo, al Pride del 22 giugno, ma non sarà solo il 22 giugno, ci sono molti appuntamenti con cui ci si arriva, probabilmente non riusciremo a dirli tutti in questa puntata, però intanto rimandiamo ancora una volta alla pagina Facebook del B-Side Pride o anche alla... alla pagina internet di Laboratorio Smascheramenti, che mi pare abbia ripubblicato un elenco riassuntivo degli eventi usciti finora, e soprattutto ne raccontiamo qualcuno, anche perché in qualche modo ci aiutano a toccare un po' quelle che sono tutte le varie tematiche e soggettività di cui si vuole portare la voce, le istanze e i desideri in questo B-Side Pride. E quindi vi chiederei appunto di raccontarci un po' degli appuntamenti con cui si arriva a questa data del 22 giugno. Allora, partiamo con giovedì 13 giugno con un'autoformazione su HIV che si terrà alle 18.30 al Centro delle Donne di Via del Piombo 5. Abbiamo per fortuna l'occasione di avere in città due compagni del collettivo LGBTQI asterisco Akmeni di Malindi, Kenya, che sono in tour, diciamo, in occasione della presentazione di un libro, Corpi Fuori Controllo, che verrà anche presentato tra gli altri appuntamenti del B-Side, e parleremo con loro di lotta allo stigma, alla sierofobia e alla prevenzione dell'HIV da una prospettiva completamente nuova per noi, nel senso di una contaminazione in qualche modo transnazionale di pratiche su questi temi, quindi è un'occasione da non perdere, diciamo. Ovviamente questo evento coinvolge diversi percorsi che si incontrano in questa serata, perché la consultoria transfemminista queer, insieme anche a Plus, ha fatto diversi incontri di autoformazione proprio su la tematica HIV e lotta alla sierofobia, e fino anche arrivare a questa definizione di sierocoinvolgimento, in qualche modo, dove la comunità frocia, trans, LGBTQI è tutta in qualche modo coinvolta anche nella lotta allo stigma di questa MTS, e di come le MTS, una riflessione su come le MTS siano state usate per il disciplinamento delle condotte sessuali e per la discriminazione di alcune soggettività, mentre insomma, attraverso la tecnologia e l'interazione del movimento contro la sierofobia con la ricerca scientifica siamo arrivati a grandi risultati, e quindi non c'è niente di cui aver paura, ecco. Sì, poi un altro evento, per esempio, ora qui sotto ho un elenco, non so se è completo, un altro evento che sarà sia una cena che una festa, però rilancia anche a un'altra tematica che viene citata anche nel documento politico, ovvero quella della libertà di muoversi, della libertà di restare e anche della, diciamo, opposizione alle politiche di oppressione sui corpi razzializzati, e quindi forse potremmo parlare un pochino anche di questo, che sarà il 14 giugno invece. Ah, la festa. Ah, c'è stato un attimo di comprensione e di panico. Sì, è la festa. C'è una, sarà una cena tipo frasi sconfinate a Bug, che con un po' di musica a seguire, diciamo, però appunto in cui anche alcuni richiedenti asilo che hanno partecipato al percorso del Beside Pride hanno proposto in qualche modo di cucinare, di finalmente avere un modo di uscire anche da queste strutture di accoglienza così un po' oppressive diciamo. Grazie dell'aiuto, del suggerimento, e quindi di autocrearsi degli spazi in cui potevano intanto essere out in quanto froce, e poi dove avere una socialità e costruirsi dei percorsi di auto-organizzazione. Beh, volevo aggiungere sul discorso richiedenti asilo che spesso nei CAS vengono reiterate discriminazioni da cui questi compagni e queste compagne scappavano dal loro paese di origine, se le sono ritrovate nei centri di accoglienza, soprattutto nei CAS, e quindi portarli fuori dai CAS, portarli in mezzo a noi, molti erano attivisti nel proprio paese, riportarli di nuovo sulla scena politica, fare empowerment, mettere la loro voce al primo posto, credo che sia molto importante. E sia importante anche trovare degli spazi in cui loro possono essere out, perché se per noi bianche e bianchi e bianco è molto importante il coming out, cioè dichiarare il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, questo per i migranti non è sempre possibile, perché molti di loro fanno affidamento anche al sostegno economico delle comunità di origine che trovano qui in Italia, e lì non è possibile essere out, essere fuori dall'armadio. E quindi l'unico modo e l'unico luogo dove possono esprimere le proprie identità, i propri orientamenti, le proprie soggettività è in degli spazi protetti, come potrebbe essere questa festa, ad esempio, o quello che succede al MIT con Favolosi Oltre i Confini, e infatti molti ragazzi che partecipano a questa cena vengono da questo collettivo. Perfetto, io ne approfitto mentre pensiamo se c'è qualche altro appuntamento di cui non abbiamo parlato per dire che era arrivato un messaggio un po' di tempo fa, ma io mi ero persa, e così ne approfitto poi anche per ridare il numero di telefono. Comunque ci scrivono: grandi Beside Pride, era ora che il Pride tornasse a essere una manifestazione politica e non una parata commerciale e mercificata. E quindi non è firmato, però insomma ci hanno scritto così alle 5:15, devo ammettere. Io poi ho il tablet lontano e ci vedo poco, e quindi me ne sono accorta adesso, però ne approfitto anche per ridare il numero, perché c'è ancora un pochino di tempo per scriverci. Il numero di telefono è il 333 180 9494. Potete scriverci via SMS, WhatsApp o Telegram, e se volete ridirlo anche dall'altra parte del vetro, visto che avevate portato così bene, 333 180 9494. Solo cose carine e favolose, grazie. E va bene, allora non so se c'è qualche altro appuntamento di cui vogliamo approfitto per dire che ci sono tantissimi appuntamenti e tantissime richieste di portare tanti appuntamenti sotto il cappello del Beside Pride, che vengono assolutamente accolte, perché è un processo di auto-organizzazione aperto a tutte le proposte. Magari lanciamo, direi, in anteprima l'assemblea pubblica di lancio del Beside Pride, che sarà mercoledì 12 alle 17:30 nel giardino di Filippo Re, negli spazi dell'università, dove poi a seguire ci sarà uno degli eventi di Unicide Be Pride, degli studenti verso il Beside Pride, la Maleducation Link, a seguire, che è, ora lo trovo, un evento sul sex work, un'assemblea sul sex working, quindi sul lavoro sessuale, con il collettivo Ombre Rosse di Bologna. Perfetto, e quindi appunto sono veramente tanti gli appuntamenti, e quindi rilanciamo anche un po' alla pagina Facebook, perché sennò continuiamo a fare l'elenco fino alla fine, invece magari potremmo affrontare anche altre due o tre tematiche. Ma prima direi che ci possiamo ascoltare un altro brano, e quindi Micia, passo di nuovo a te il testimone. Cosa mettiamo? Mettiamo Ella Fitzgerald e Louis Jordan, un pezzo del 46, si chiama Stone Cold Dead in the Market, ed è un pezzo che parla di violenza domestica in un periodo in cui socialmente non si affrontava l'argomento, e invece guarda un po' all'interno della comunità nera già. Radio Città Fujiko 103.1 FM. E rientriamo in diretta con questi ultimi 5 minuti di puntata, in cui dobbiamo prima di tutto rispondere a una domanda a cui finora forse era la prima da fare, ma non abbiamo risposto, ovvero perché Beside Pride, quindi anche il nome, diciamo, come nasce? Beh, il nome si riferisce appunto a questa idea che ci sono delle soggettività che non hanno una voce che si sente tanto quanto quella di altre soggettività, o che ci sono dei vissuti, dei bisogni e desideri che non hanno la stessa agibilità anche nell'immaginario collettivo, nel discorso pubblico, nel discorso politico dei movimenti LGBTQ, e che, come succede spesso nei vinili, nei dischi, oltre alla canzone che fa successo, il singolo di successo del lato A, c'è anche un lato B, e che quindi per noi è come un po' dire girate il disco, c'è anche qualcosa dall'altro lato. E però appunto, no, volevo anche dire in chiusura che questo è ovviamente il Pride è una tappa di un percorso che noi speriamo, molti di noi sperano che vada avanti e che possa continuare anche negli anni, nel prossimo anno, che possa insomma continuare al di là dell'evento del Pride, a cui però insomma invitiamo tutti a venire il 22 giugno, e anche agli altri eventi, all'assemblea pubblica di mercoledì 12 ai giardini di via Filippo Re. Insomma, ci sono tantissime cose, quindi venite. Sì, infatti ci sono tantissime cose, noi abbiamo provato a raccontarne qualcuna in questa puntata, siamo arrivate quasi alla fine, quindi veramente non ci resta che forse dare gli ultimi contatti, quindi dare per l'ultima volta anche un riferimento per chi ci avesse ascoltato e volesse cercare altre informazioni. Si può fare quindi di persona mercoledì 12, ma si può fare anche, diciamo, in via internet, se uno volesse cercarsi informazioni prima. Io anticipo intanto che il podcast di questa puntata sarà disponibile come sempre sul nostro sito www.radiocittafugico.it, e vi invito anche, visto che sto poi passando la palla dall'altro lato per dare i contatti, a seguirci, se già non lo state facendo, sulle nostre pagine social, quindi come Radio Città Fujiko potete trovarci su Instagram, su Facebook e su Twitter, e sempre su Facebook potete seguire anche la pagina dell'Indigesto. A questo punto veramente passerei la palla a voi per dire anche appunto dove trovare le informazioni, sia quelle che abbiamo dato nella puntata di oggi, sia i vari appuntamenti. Beh, sulla pagina Facebook del Beside Pride sicuramente troverete queste informazioni sulle eventi, il documento, le adesioni, viene aggiornata abbastanza regolarmente e poi ovviamente le varie realtà che fanno parte del percorso rilanceranno sui loro canali, quindi la pagina dei laboratori smascheramenti, di Plus, del MIT, della collettiva elettronica, di Elastico, quindi sì. Insomma, se digitate Beside Pride ci trovate. Perfetto, a questo punto io intanto ringrazio tutte le mie splendide ospiti per essere state qui in studio con me, e ringrazio anche le ascoltatrici e gli ascoltatori per essere rimasti sintonizzati. Noi ci salutiamo con un'ultima canzone, poi ci sarà il Last Minute versione flash con gli appuntamenti di oggi, e poi a seguire il nostro Peter Skanking. Grazie a voi. Ci lasciamo con così un omaggio a tutte le situazioni di lotta e di manifestazione che ci hanno visto insieme in questo anno, con Azealia Banks.